Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento anche per questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Nuovamente un saluto al nostro caro presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Carlo, quest'oggi parliamo di un episodio che è accaduto in un'osteria a Mestre, un'osteria rinomata per i suoi piatti ricercati di qualità, perché a un consumatore è successa una cosa. Sì, l'occasione, Francesco, per raccontare questo episodio è anche quello di dare quel tipo di informazione che permetta a qualsiasi consumatore, a prescindere dove si trovi o a fare cosa, a capire quelli che sono un po' i suoi diritti. E in questo caso certamente si va a parlare di quello che è un episodio che risale un po' di tempo fa, di cui una persona si è rivolto a un noto ristorante e durante la consumazione del pasto la persona si è trovata un guscio di pistacchio nella pietanza, nella portata del primo, con conseguente rottura del dente durante la masticazione del pasto. Ecco, quindi probabilmente il piatto prevedeva dei pistacchi, ma era caduto un pezzo di guscio che è finito inevitabilmente in bocca al consumatore. Ha avuto la peggio il suo molare inferiore. E quindi cosa è successo? Sì, è successo che la persona ha saltato il dente, prontamente, anche di fronte ai testimoni, di fronte ai presenti, ha avvisato il gestore del locale, il quale, dopo aver ricevuto adeguate rassicurazioni, alla fine la vicenda si è un po' complicata, perché a fronte di una spesa che la persona ha sostenuto di 600 euro per doversi rifare il dente, il gestore non gliel'ha più voluti riconoscere. Di conseguenza la persona, visto che insomma questa vicenda cominciava a trascinarsi anche oltre rispetto all'evento in cui era capitato, si è rivolta all'Adico, il quale, non ottenendo poi il riscontro dal gestore su quella che era una richiesta che la persona aveva fatta più che legittima, ha messo a disposizione i propri uffici legali per promuovere quindi una richiesta di risarcimento e quindi giustamente in questo caso far sì che il cliente venga riconosciuto il disagio e il danno che ha ricevuto, e la speranza che comunque questa persona, quando capita una cosa del genere, cerchi di trovare una soluzione più bonaria rispetto che adottare questo atteggiamento che certamente non porta da nessuna parte, ma lo potrebbe solamente vedersi di evitare i costi di fronte a quella che è una richiesta di poche centinaia di euro. Certo, non è la prima volta che parliamo di denti, in alcuni casi proprio anche l'intervento dell'Adico è riuscito a sistemare le cose tra le parti in via quasi bonaria, diciamo così. Staremo a vedere che cosa succederà anche in questo caso che ci hai segnalato oggi. Quindi vedo che sempre l'Adico è attenta a un ampio spettro, insomma, di possibilità che possono accadere ai consumatori e in vari ambiti. Voi insomma potete dare una mano importante a risolvere dei grossi problemi come questo che è capitato a questo cliente incappato in questo guscio di pistacchio nella sua forchettata di una gustosa cena. Carlo, vogliamo ricordare anche le possibilità e le modalità di contatto insieme all'Associazione Difesa Consumatori? Sì, innanzitutto Francesco, a noi ci entusiasma raccontare queste vicende proprio per mettere sempre a conoscenza, grazie a voi, di quelli che sono i diritti, perché poi è fondamentale che quando queste cose capitano, come abbiamo detto nell'intervento, la persona cerchi di farsi subito promotore di quelle che sono le sue dimostranze, proprio per evitare poi di complicare la cosa, quindi contattare il gestore, procurarsi dei testimoni, materiale e quant'altro è sempre utile. Per quanto riguarda poi la nostra associazione, per coloro, qualsiasi persona che si trova nelle difficoltà o vuole ricevere informazioni, possono contattarci in qualsiasi ora del giorno, dal lunedì al venerdì fino alle 19, 04153 349-737 o addirittura scriverci all'indirizzo mail info@associazionedifesaconsumatori.it. Molto bene, abbiamo dato quindi anche i contatti per collegarsi con l'Adico. Io ti ringrazio Carlo, l'appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre è rinnovato per la prossima settimana. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.